Tu che sei sale della terra, risplendide la vera luce. Sai che il mondo creato dall'amore crede in te, crede in te. Insieme a me potrai camminare, andare avanti dove già sai che il tempo tuo potrai donare, potrai donare, potrai donare. Misericordia e gioia e voglia di vivere con te, Gesù. Oh, oh, oh, oh, oh. Misericordia e gioia e voglia di vivere. Segreto che voglio confidare per farti superare le mille avversità. Guarda il cielo, prega e poi guarda d'intorno ed amami, amami. Quando pensi che tutto sia finito, è da lì che inizia il tuo cammino. E se rialzarti sembra faticoso, ripensa al Padre misericordioso. La mente ci porta a pensare, il peccato è la meglio, ma non mollare. Apri il tuo cuore, sappi perdonare, alza gli occhi al cielo e ricomincia ad amare. Misericordia e gioia e voglia di vivere con te. Misericordia e gioia e voglia di vivere con te, Gesù. Oh, oh, oh, oh. Misericordia e gioia e voglia di vivere.